Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tra poco alle 14.30 la Corte di Giustizia federale si riunirà per esaminare il ricorso della Fiorentina. Fioccano ovviamente i commenti sulla vicenda, qualcuno ve lo leggerò più tardi, sono messaggi vostri arrivati all'indirizzo di posta elettronica, poi ne sentiremo ovviamente a caldo tra i vostri interventi in diretta. È l'argomento del giorno, questo non toglie che ce ne siano altri, per esempio tra questi c'è il debutto di Costa Curta su una panchina per l'appunto, perché finora non era accaduto. Costa Curta ha già diretto il primo allenamento del Mantova, è stata una scelta coraggiosa, curiosa, forse anche modaiola quella della società mantovana, visto che da un elenco che ho sott'occhio, di cui poi parleremo più a lungo domani, non si può dire che manchino gli allenatori in attività che hanno già diretto in Serie A e B, quasi tutti in Serie A, sono almeno una quarantina, un elenco che è aperto da Roberto Mancini e che arriva fino a Viergbod, fino a Ezio Rossi, con esperienze più o meno lunghe dai fascetti, ma evidentemente è un cambio generazionale quello che c'è in atto. Sentiamo la voce di Costa Curta. Se volete dei numeri, credo che il 4-2-3-1 per questa squadra possa andare bene, però dopo non ditemi che non vi avevo avvertito del fatto che posso anche cambiare. Non sono stato scelto per concludere la stagione, ma comunque con un progetto eventualmente di un altro anno. Credo che sia molto importante per me, credo che sia importante anche per i giocatori, che possono percepire che possiamo lavorare serenamente e tranquillamente, perché credo che ci sia bisogno. Queste le prime parole di Billy Costa Curta da allenatore del Mantova. Stiamo parlando di allenatori, eccone uno che a distanza di 2 anni ha deciso che proprio non gli è andata giù. Claudio Gentile, un'agenzia uscita in questo istante, Claudio Gentile, per l'esonero di allora dall'Under 21, ha fatto causa alla FIGC. Leggo, datata Torino, notizia, una causa civile è stata avviata da Claudio Gentile contro la FIGC per l'esclusione dalla carica di tecnico della Nazionale Under 21. Il procedimento sarà discusso al Tribunale di Roma. Gentile lamenta il fatto di essere stato estromesso nel luglio 2006 nonostante le ampie rassicurazioni che aveva ottenuto dall'allora commissario straordinario della Federazione Guido Rossi. Gli accordi verbali, e quanto afferma Gentile, lo avevano convinto a respingere le offerte di diverse squadre italiane ed estere. Estere, è martedì e quindi è il giorno del ministro degli esteri, Fabio Tavelli. Buongiorno. È scattata la password. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. È scattata la password, non è male. Io credo che in copertina oggi, salvo errore d'omissione, perché un ministro sei tu, ma credo che ci sia quella che il Corriere dello Sport di oggi titola la favola di Hoffenheim e Hull City, nel senso che una è addirittura prima in Bundesliga ed è una squadra, adesso poi tu ci racconterai, ma che arriva davvero dai bassi fondi del calcio tedesco, e mi pare che le due ultime promozioni siano dalla C alla A consecutive. Sì. L'altra, grosso modo ci siamo, scegli tu se vuoi cominciare da l'una o dall'altra, tanto in ogni caso non si casca male, magari l'Hoffenheim, visto che è addirittura prima in classifica mentre gli altri sono secondi. L'Hoffenheim è prima, e la differenza vera che c'è tra l'Hoffenheim e l'Hull City è che, mentre l'Hull City fino a pochi mesi fa aveva il primato di essere la squadra di Kingston upon Hull, cioè la città europea più grande a non avere mai avuto una squadra di calcio in una prima divisione, in una prima serie nei campionati europei dell'Europa occidentale, l'Hoffenheim invece è veramente quello che più assomiglia al Chievo, se vogliamo dare un paragone, un riferimento, forse il Chievo ancor meno, ma insomma Hoffenheim davvero tante volte si dice ha più spettatori allo stadio che abitanti registrati all'anagrafe, perché effettivamente è un centro di 3200 anime, nello stadio ce ne vanno molte di più, perché effettivamente poi nella regione lì attorno, nel Baden-Württemberg, l'Hoffenheim è diventato un fenomeno quasi di costume. Stiamo parlando di una squadra che è nata nel secondo dopoguerra, perché è nata nel 1945, tra l'altro con la fusione tra un club di ginnastica e un club di calcio, e tutto sommato fino diciamo alla metà degli anni 90 questa è una squadra che non aveva mai dato segnali di esistenza. E poi come spesso capita, quando hai la fortuna di avere o una persona molto ricca o comunque molto famosa che nasce da quelle parti o ha affari, fa affari da quelle parti, l'Hoffenheim ha immediatamente svoltato. E, insomma, effettivamente gli anni 2000 sono gli anni dell'Hoffenheim, perché questa squadra ha cominciato intanto a costruire uno stadio da 30.000 posti a Sinsheim, e poi ha cominciato ad avere la possibilità di ospitare le partite di Bundesliga, è stata promossa, ha cominciato a fare anche un po' di spese, ha ingaggiato giocatori di serie superiori, ha ingaggiato un allenatore come Rangnick, che aveva già lavorato sia a Stoccarda che a Gelsenkirchen con lo Schalke 04, ha vinto la Liga regionale, poi ha vinto il campionato, la Zweite Bundesliga, e quest'anno è arrivata nella Bundesliga. Qualcuno può pensare, va bene, adesso però le cose cambiano, invece no, perché questi, con tutta la pressione che avevano addosso domenica, perché affrontavano l'Amburgo, da una settimana tutti dicevano, se l'Hoffenheim vince vada solo in testa alla classifica, l'Amburgo era la capolista, cioè non stiamo parlando di una squadretta, primo tempo Hoffenheim 3, Amburgo 0, e che poi è stato anche il risultato finale, quindi insomma, se pressione c'era l'hanno saputa scaricare nella maniera migliore. Discretamente. Nemmeno il Chievo del 2000-2001, insomma, dei tempi d'oro, era mai riuscito a issarsi da solo, mi pare, in testa della classifica. Sì. Oppure comunque non dopo così tante giornate, sì. non alla nona. Alla nona compiuta, interrompo un istante perché nel segno del più puro fair play, visto che l'Inter la Fiorentina non avrà Girardino domani sera, l'Inter non avrà Adriano, perché oggi le agenzie sono scatenate e Adriano, leggo, appena uscita, la prima vittima dell'epurazione di Mourinho. Nonostante fosse già sulla lista nera come si sospettava, l'attaccante ha firmato comunque oggi la sua condanna, scrive l'Ansa, presentandosi in ritardo all'allenamento. Tirava già brutaria per lui, Adriano è stato immediatamente rispedito a casa, quindi non convocato per Firenze. Mi pare che in attacco, in particolare l'Hoffenheim, abbia addirittura il capocannoniere, un bosniaco, Ibisevic, dico bene? Sì. Questa è una squadra che tra l'altro sembra aver fatto delle offerte ad aquilani, ci sono due bosniaci che sono Saljovic e Ibisevic, poi insomma ce ne sono altri, loro hanno fatto anche spesa in giro per il mondo, perché sono andati a prendere Obasi, che è un giocatore nigeriano, l'hanno preso da una squadra di Oslo, e qualche anno fa lo fece anche il Chelsea prendendo John Obi Mikel proprio da lì. E poi c'è Ba, che è un giocatore che a me piace tantissimo. Da non confondere con l'omonimo. No, per carità. Con l'omonimo porta fortuna del Milan. Esatto. No? A cui ha fatto un contratto ancora l'altro anno, non sbaglio, perché portava buono. Sì, esatto. Sì, questo anche lui è senegalese, lui non so se porti buono, certamente è un giocatore comunque non anziano, perché è dell'85, insomma intorno al 1,90 m, è uno che lanciato in verticale fa paura, ha segnato anche domenica all'Amburgo, e insomma credo che l'Hoffenheim possa anche durare, magari non primo in classifica, perché poi arriverà anche il Bayern, insomma l'Amburgo. Certo. Però non direi che ormai le prove, gli indizi sono talmente tanti da poter pensare che se questi non impazziscono dovrebbero poter fare comunque un buon campionato. Certo, comunque è giusto per dire che non c'è solo Napoli, vabbè, Napoli è un'altra entità, ma insomma viene pur sempre da dove sappiamo, da dove era precipitata, non c'è Napoli, non c'è solo Udinese, non c'è solo Catania, magari Genoa, prossimamente c'è questo Hoffenheim. Per trasferirci a Kingston farei una circonvallazione lunghissima, perché mi segnala un ascoltatore che sulla Bari-Taranto il segnale è molto molto debole, soprattutto intorno a Gioia e a Casa Massima, scrive, e quindi io queste cose le dico perché le ascoltino i responsabili delle nostre frequenze. Allora, tra l'altro, Gigi, citando Taranto, citi la città italiana più grande a non essere mai stata in Serie A. Non so come si rapportino Kingston upon Hull e Taranto, non so nemmeno se Taranto possa prendere il posto di Kingston upon Hull. Però è un dato di fatto che la città più grande d'Italia a non essere mai stata in Serie A è Taranto. Vorrei che aspirassi al ruolo di ministro dell'interno anziché degli esteri. Magari no. Siamo arrivati a Kingston, cittadina invece più grandicella, leggo 257.000 abitanti, lo leggo dal Corriere dello Sport perché giuro che ignoravo che esistesse, e Kingston è la sede di quest'altra squadra miracolo, direi forse anche di più qualitativamente, visto che stiamo parlando di un campionato oggettivamente più impegnativo dal punto di vista della qualità, no? La Premier League. sì, tra l'altro la storia dell'Hull è curiosa, ma è curioso anche il presente, perché l'Hull City, vabbè, non è primo in classifica, però ha i punti del Chelsea e, insomma, e già questa è una notizia. Mercoledì gioca, col, gioca proprio col Chelsea e poi gioca il Manchester United, quindi in due partite. Magari martedì prossimo ci ritroviamo a chiacchierare dicendo che la bolla dell'Hull City è già finita, o invece no, magari ci troviamo all'Hull City che fa come l'Hoffenheim ed è primo in classifica. Questa è una squadra che non era mai stata in Premier League, quindi nelle prime giornate tutti dicevano, ecco, l'Hull City è la squadra con il miglior record in Premier League perché ha vinto due partite in trasferta, poi, ed era così, insomma, modo anche per prenderli un po' in giro. In realtà poi di partite fuori ne hanno vinte quattro, hanno anche vinto all'Emirates contro l'Arsenal, ovviamente il loro stadio è sempre praticamente pieno, cioè questa è una città portuale dove tutti sono tifosi dell'Hull City e quasi tutti sostanzialmente hanno fatto l'abbonamento. È una squadra che a differenza dell'Hoffenheim è andata a fare un po' di spesa anche su giocatori che invece avevano un po' deluso o finito dei cicli, perché ad esempio Stelios Giannakopoulos è un giocatore che al Bolton aveva fatto a parer mio abbastanza bene, ma che non trovava più spazio. Anche Kuzen è un giocatore che è stato l'anno scorso ai Rangers, sembrava un giocatore completamente finito e invece adesso è diventato un giocatore importante. Marlon King, che ha segnato domenica, è arrivato in prestito dal Wigan. Poi c'è Winsas, che è che è la vera icona di questa squadra, è un ragazzo di 39 anni che ha fatto tutta la trafila con l'Hull City ed è uno che probabilmente può diventare il sindaco di Kingston upon Hull. E poi c'è Giovanni, che è questo brasiliano che sembrava poter esplodere al Manchester City e invece ha avuto bisogno di andare in una squadra più piccola per dimostrare di essere ancora forte. Sono queste le due squadre sorprese, le due rivelazioni continentali di questa stagione, almeno per il momento. Tenendo conto che in realtà è un momento poi complessivo nel quale ci sono anche altri tornei, se guardi anche in Portogallo, ci sono un paio di squadre in Portogallo, tipo il Porto domenica sera ha perso nel posticipo con una squadra che si chiama Leixões, e io non la pronuncio certamente bene, ma il Rubin Kazan sta per vincere il campionato russo ad onta del fatto che lo Zenit San Pietroburgo sia in Champions League. Anche in Olanda ci sono il Groningen, il NAC Breda, insomma è un momento che io faccio onestamente fatica a trovare un filo conduttore che riunisca tutte queste squadre sorpresa, però da qualche parte deve esserci perché è un momento così. Va bene, veniamo alle grandi tradizionali, anche se poi dovremo interromperci tra poco per la viabilità. Continuano ad arrivare segnalazioni, si vede che è una giornata non facile. Piove, tra Castel San Pietro e Imola, per esempio, segnale pessimo. Non buono nemmeno tra Reggio e Parma, soprattutto in direzione del casello di Parma. Vabbè, vedremo di provvedere. Tra le grandi mi pare che la vera sensazione l'abbia fatta la caduta dell'imbattibilità interminabile ormai del Chelsea. Sì, tra l'altro legata all'interruzione del record di segnature consecutive in casa dell'Inter, c'è un filo che riconduce a Mourinho, perché in buona parte il record di imbattibilità casalinga del Chelsea è legato a Mourinho. Mourinho che ha comunque un primato, credo poco attaccabile, ormai sono più di 100 partite che lui non perde quando gioca in casa, sommando naturalmente le sue esperienze al Porto, al Chelsea e all'Inter. È certamente un dato di fatto che porta il Liverpool primo in classifica, che porta alla considerazione del fatto che il Chelsea è una squadra che gioca un calcio forse migliore di quello che esprimeva con Avram Grant e forse anche migliore di quello che esprimeva con José Mourinho, però una squadra che ha un po' più di difficoltà a fare gol perché Drogba è infortunato. Certo. Credo che non sia un giocatore sostituibile in questo momento Drogba al Chelsea, non ha il passo, non ha le caratteristiche, non ha la classe, non ha la cattiveria di Didier Drogba, uno che al Liverpool ha segnato tantissimi gol, insomma non a caso domenica il Chelsea ha avuto pochissime occasioni per segnare, ne ha avuto una con Deco. Diciamo che il Liverpool è stato fortunato sul gol perché il tiro di Xabi Alonso è stato deviato, ma ha preso un palo con Cech completamente fermo nel secondo tempo, proprio con Xabi Alonso, uno che forse alla Juventus avrebbe fatto anche comodo, visto che è stato trattato in estate, gli è stato preferito Poulsen. E, insomma, è caduto un record perché come tutti i record poi sono destinati destinati a cadere, no, non cade il fatto che il Chelsea rimanga una delle favorite per la vittoria del campionato, anche se da dietro sta piano piano, anche se sabato non ha vinto, sta risalendo un po' il Manchester United. Comunque la Premier League se la giocheranno ancora Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United. Credo anch'io che ci siano pochi dubbi. Torniamo tra un minuto o poco più e torneremo da Zola, insomma, da questa festa di accoglienza per il piccolo grande sardo, tamburino sardo se vogliamo, che insomma era partito benissimo e adesso comincia ad avere serie difficoltà. Paolo Ventura da Genova mi chiede un commento su quello che lui definisce lo splendido articolo di Michele Serra stamane su Repubblica dedicato a Girardino, o meglio che prende spunto dall'episodio Girardino, ma Paolo, io ne parleremo il giorno in cui Michele Serra sbaglierà un articolo, fino a quando sono di questa levatura credo che non ci sia la notizia, nel senso che questa è assolutamente la norma a cui ci ha abituati. Eravamo a Zola, caro Fabio, a Zola, di Michele, insomma questa loro partenza scoppiettante nella Premier League e poi invece adesso al rientro abbastanza triste, no? Nella normalità. Sì, rientro nei ranghi, certo non è perdendo in casa contro l'Arsenal, tra l'altro il West Ham è uno dei bersagli preferiti dell'Arsenal degli ultimi anni. Non è certamente avendo perso con l'Arsenal che si possono trarre delle conclusioni. In verità l'arrivo di Zola è stato salutato con entusiasmo da tutti, perché Zola ha veramente lasciato un ricordo che è proprio superiore al fatto che è stato un giocatore del Chelsea, cioè comunque in tutti gli stadi lui riscuote un successo che non ha molti eguali in giro poi per il mondo, e poi però deve confrontarsi con la dura realtà sul fatto che non possa schierare il suo attaccante migliore che è Dean Ashton, sul fatto che Di Michele abbia fatto subito bene alla prima partita col Newcastle, poi si sia un po' perso, qualche infortunio, complessivamente non è una squadra di levatura altissima il West Ham. E mettiamoci anche il fatto che si tratta della prima vera esperienza senza salvagente per Gianfranco Zola, e probabilmente queste sono difficoltà che lui stesso pensava che si sarebbero presentate. Adesso deve essere bravo lui a cercare di non aprire l'emorragia e a tamponarla subito. Ci sono due partite nel giro di 3-4 giorni, insomma settimana prossima a parer mio potremo anche dire qualcosa di più, perché se il West Ham scende ancora in classifica, allora poi tutto il credito che Zola si è costruito in tutti gli anni, sai, fai anche presto a perderlo. Certo. Basta vedere. In un altro ruolo, però, Fabio, io continuo a pensare che Zola sia una persona talmente splendida da non avere quel pizzico di cattiveria, lo dico in maniera molto generica, insomma, in più che. Per fare quel mestiere credo sia assolutamente indispensabile. Questa è un'opinione che sento diventare sempre più, cioè, la sento circolare parecchio, insomma, è probabilmente vero. Mi auguro di sbagliare, sia ben chiaro, perché Zola è uno che da giocatore ha avuto non tutto ma tanto, vorrei che avesse ancora di più da tecnico, ma ho qualche dubbietto. Sì, anch'io mi stupirei moltissimo se lui diventasse un grande allenatore, non perché non possa diventarlo. Tutt'altro, però magari con un sergente di ferro vicino, magari, no? Vabbè, non lo so, questa è una ipotesi. Facciamo un saltino in Spagna perché il tempo passa, e nel saltino in Spagna troviamo, ecco, questa volevo sottoporti, Villarreal Atletico 4-4. Allora, quando io vedo, per carità, spettacolo, divertimento, indici d'ascolto che impennano, chi dice di no, però quando insomma una squadra che gioca in trasferta, l'Atletico, si trova sul 2-0 Villarreal e si fa rimontare da 2-0 a 2-4, vuol dire che come minimo non sa difendere. Ma cosa dire di un Villarreal capolista che si ritrova su 4-2 quarto d'ora alla fine, gli altri sono in 10 o sbaglio? Sì, sono in 10. Ecco, sono pure in 10 e si fa rimontare su 4-4. Cioè, l'Europa ha disimparato a difendere. Ma guarda, io credo che il mondo abbia disimparato a difendere. Credo che una partita come quella del Madrigal sia una di quelle che proprio scompaginano tutti i criteri e tutto quello che pensavamo prima della partita tra Villarreal e Atletico Madrid viene completamente cancellato da questa gara, perché si sono sommate tali e tante situazioni strane. Se tu pensi che l'Atletico Madrid è una squadra che va benissimo in Champions, anche se poi ha perso ha pareggiato con Liverpool l'ultima in casa, ma che adesso in campionato sta cominciando a fare un po' fatica, Questa è una partita davvero che sconvolge. L'Atletico Madrid in questo periodo non ha nemmeno il miglior Agüero, appunto, che spesso sta in panchina. Sì. Leo Franco ha regalato praticamente un gol di questi otto. Onestamente, davvero è roboante, è bello, fa spettacolo, tutto quello che vuoi, però come abbiamo detto l'altra volta quando abbiamo commentato i 30 e passa gol di Champions League, dentro, se li vai a analizzare bene, ci sono più errori che meriti. Questo ci può anche stare, perché l'errore fa parte del gioco. In quella partita e in quella situazione probabilmente ce ne sono stati parecchi, senza togliere niente al Villarreal, che è una realtà fantastica e che io credo possa fare campionato di vertice anche fino alla fine. La Liga, discorso, ad esempio, certo. Esatto. Ma la Liga è un campionato bellissimo, perché adesso sono rientrate bene il Barcellona, il Real Madrid non si è mai staccato del tutto, cioè c'è il Valencia che è tornato a grandi livelli, cioè ci sono comunque tante belle squadre che giocano un buon calcio. Lì, ecco, forse in Spagna, la Spagna è l'unico campionato che in questo momento non ha la sorpresissima. Sì, c'è il Malaga che sta facendo bene, però non è né primo né secondo. Io farei un minutino, magari scarso, lo so che è difficile perché è un tema complesso, magari lo accenniamo e poi lo articoleremo meglio prossimamente. Cioè, come ha fatto Guardiola in un mese, in un paio forse di mesi, dopo un inizio difficile, a produrre un Barcellona, a mettere in campo un Barcellona così, così efficace, così brillante, così divertente, persino più dei tempi migliori di Rijkaard al momento? Sì, ma addirittura lo si paragona al Dream Team di Johan Cruyff, per cui il paragone è impegnativo. Ma io credo che solo a Barcellona Guardiola avrebbe potuto, con quella squadra che ha a disposizione, avere la possibilità di sbagliare, se ha sbagliato, ma certamente i risultati non lo stavano premiando all'inizio. Cioè, solo un uomo dalla credibilità locale di Pep Guardiola a Barcellona, lui lì è veramente un mostro, un'icona, avrebbe potuto avere il tempo di poter, esatto, di poter quell'apertura sbagliare. Di credito iniziale, no? Apertura di credito che poi lui si è guadagnato. Poi adesso il Barcellona travolge tutto e tutti, lo fa giocando da Barcellona, ma non è che prima il Barcellona non lo facesse. Io ho visto anche le partite nelle quali il Barcellona non vinceva o anche perdeva, era una squadra che si vedeva aveva delle idee, faceva fatica a realizzarle. Quando Leo Messi ha cominciato a giocare 5-6 partite di fila senza aver problemi fisici, quando anche Henry è entrato a dare una mano alla squadra e Guardiola ha avuto il coraggio anche di metterlo fuori, di tenerlo fuori, quando Eto'o, insomma, è uno che ti fa 2-3 gol a partita, in questo momento è il capocannoniere del campionato. Cioè, avere Eto'o e non averlo è una differenza spaventosa a livello di profondità, a livello di movimenti che Eto'o fa. E complessivamente, probabilmente anche da un punto di vista fisico, la squadra ha finalmente si è tolta un po' di ruggine ed ha trovato il passo giusto. Fondamentalmente, secondo me, è il fatto che quando prendi un allenatore nuovo, quando prendi un allenatore che ha delle idee e quando prendi un allenatore che punta sui giovani, non puoi pensare che in 3 partite lui, o anche 5, no, certo, abbia già risolto tutto. Gli devi dare la possibilità di sbagliare. Se si chiama Guardiola a Barcellona, gliela dai. Se si chiama in un altro modo, in un'altra città, magari non gliela concedi. Chiave di lettura ineccepibile. Fatto sta che oggi come oggi il Barcellona probabilmente è la squadra da tenere più d'occhio per la Champions League in assoluto, nell'intero panorama europeo. Grazie Fabio Tavelli. Ciao a tutti. Ciao. Quanta pubblicità, scrive Pino da Chieti? Beh, poca no, direi proprio di no. Marco ha chiamato la provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senza fare del puritanesimo o della retorica, volevo solo dire che secondo me la squalifica di Gilardino e di altri giocatori che magari si comportano come lui è giusta. E le spiego perché. Innanzitutto il gesto in se stesso è antisportivo. Poi l'esultanza è abbastanza disdicevole, ci mancava che facesse una sviolinata. E poi anche le dichiarazioni di circostanza dopo sono state abbastanza, insomma, leggere. E, infine, secondo me la Fiorentina sbaglia a fare il reclamo, perché è una società poi anche che ha, diciamo così, molto che voleva fare il terzo tempo, insomma, che ha iniziato a fare questo terzo tempo, dovrebbe stigmatizzare tali episodi, soprattutto in un paese come l'Italia, che manca di cultura in generale, di cultura sportiva soprattutto, e di cultura sportiva nel calcio in particolare. Ecco, volevo sapere cosa ne pensava. Letto, firmato e sottoscritto al 100%. Piero da Trieste, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica. Mi sente? Certo, forte e chiaro. Io sento un pochino, la saluto, volevo dirle semplicemente qua del no, e forse vado controcorrente, ma non era questo il senso mio di andare controcorrente. Io amo lo sport in genere, quindi il fair play è una cosa che è basilare nello sport, però preferisco il furbillo che l'ipocrita, insomma. Quindi a un certo momento qui tutto quello che si è inteso, il Girardino non doveva esultare, ma dico, come faccio un gol con la mano, non esulto. Ecco, mi sembra questi giocatori che segnano un gol e poi fanno segno che non vogliono perché hanno fatto il gol alla ex squadra. Allora, per carità, non posso esultare. Quello è tutto contento che ha fatto un gol, insomma, che facciamo lo sport, facciamo, è un lavoro, è un mestiere, mettiamolo come vogliamo. Allora, quello che dico, a un certo momento Girardino avrà sbagliato, avrà fatto, ma non si può tirare la croce addosso a questa gente che fa, io non sono né fiorentino né niente, quindi... No, ho capito, ma infatti nessuno tira la croce, gli ammolli due giornate, come è giusto che sia, e da prova televisiva e basta, finisce tutto lì, non è che c'era stare a farla tanto lunga, no? Mi pare che la decisione ci stia, poi in altri casi sì, in altri casi no. Questo è un caso in cui le due giornate ci stavano, e come a parer mio bene ha fatto il giudice sportivo ad applicare la prova TV con severità. Su tutto il resto condivido poco e nulla del suo intervento, in tutta sincerità. Se un giocatore, a parte poi chi se ne frega delle esultanze, no? Di uno che esulta o non esulta, bisogna spaccare la bandierina per essere a calci, per essere sicuri che quello gioisce davvero fino in fondo, a parte queste fregnacce. Io ricordo che nel calcio più uno ha segnato un grande gol e più uno ritiene di essere un grande giocatore e meno cinema fa e meno esulta. Quando Ibrahimovic ha fatto quel capolavoro due settimane fa di tacco, non si è mosso da dove era. Perché? Ma perché in quel momento è consapevole di aver fatto un capolavoro e non ha nessun bisogno di sottolinearlo. Così valeva per Sivori, così valeva per tanti altri calciatori. Poi da quando sono del passato, da quando sono arrivate le telecamere e gli sponsor e i procuratori esigono sceneggiate, dai con la sceneggiata. Insomma, se vogliamo tornare alla radice quadrata, questo era e questo sarà sempre. Se invece vogliamo andare dietro al marketing, allora stiamo aspettando le esultanze di Beckham. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, io sono un tifoso del Torino, volevo fare due critiche, uno al presidente Cairo e uno a tutto sport. Presidente Cairo, si dovrebbe mettere in testa che una società di calcio va gestita con degli elementi che sappiano fare, nel mondo del calcio ci sappiano fare, ma ho fatto un po' di casino, non può fare tutto lui, perché lui praticamente fa dal magazzino al presidente. Io penso che siano, nel mondo del calcio moderno, sia una cosa impossibile. La seconda cosa è tutto sport dovrebbero cioè cambiare denominazione, non più tutto sport ma bensì tutto Juventus, perché su 23-24 pagine 10 pagine sono dedicate alla signora. Che ne pensa lei? Antonio la prega, che ha già avuto delle emicranie in passato e che comunque poi ciascuno fa la sua corsa e non ho titolo per giudicare il lavoro altrui. Senta questa piuttosto, notiziola pubblicata oggi nella Gazzetta e datata Cremona. Aggredito perché aveva osato indossare la giacca col logo del Piacenza. Allora, questa è la ragione di un pestaggio avvenuto in Piazza della Pace, no? Tra l'altro, pensi la potenza, la suggestione del nome di una piazza. Non c'era nessun evento sportivo in corso, intendiamoci. Cioè, questo giovane di San Pietro in Cerro stava passeggiando per Piazza della Pace a Cremona, ha una giacca con uno stemma del Piacenza, si è ritrovato all'ospedale con lesioni al volto e agli arti, guaribili in un mese. Due dei suoi aggressori sono già stati individuati dalla Digos, un ultrà della Cremonese di 25 anni, eccetera, eccetera, tra l'altro arrestato per rapina e lesioni gravi, nella cui casa hanno trovato la giacca strappata al tifoso piacentino come trofeo, e un 37enne assicuratore di Cremona, ovviamente anche lui con precedenti penali. Vuol sentirne un'altra? Senta questa, la Procura della Repubblica di Catania, un'agenzia arrivata da poco, ha citato a giudizio il portiere del Catania, Polito, di 29 anni, e sua moglie, di 28, per due episodi accaduti nel dicembre del 2006. Morale, provo a farla breve perché l'agenzia è piuttosto lunga e nemmeno scritta benissimo. La signora Letizia, cioè la moglie del portiere Polito, pretendeva di parcheggiare la sua macchina prima della partita in una strada riservata a veicoli autorizzati, prima delle partite con Catania, cioè del Catania con l'Udinese e con la Sampdoria, ripeto, dicembre 2006. Poiché questo parcheggio le è stato impedito, si era rivolto ai poliziotti chiamandoli morti di fame, schiavi dello Stato, eccetera, e minacciandoli, non sapete contro chi vi siete messi, vi farò vedere io, eccetera, eccetera. Dell'episodio ovviamente era poi stato informato il marito, cioè il portiere del Catania Polito, che anziché redarguire simpaticamente la moglie, si era recato dai poliziotti e aveva invitato gli agenti di polizia di servizio a togliersi la divisa, che poi ve la faccio vedere io, e vorrei proprio sapere chi è questo schifoso che non ha fatto entrare mia moglie con la macchina. Il giudice di pace di Catania ha fissato la prima udienza per il 20 gennaio del 2009, no? A proposito di bella gente che popola il mondo del calcio, altro che i simulatori, se posso permettermi. C'è in linea Angelo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, tornando ancora al discorso che facevate prima della prova TV, volevo chiedere un'informazione: come mai quando Ibrahimovic ha toccato il terzino che è caduto sembrava che fosse stato travolto da un tir, le prove televisive non fossero state adottate nei confronti del terzino? Era tutto lì che mi domando ogni tanto come mai le usano solo per quelli che fanno gli attori. Ma cioè secondo lei era Thiago Motta che andava punito? No, volevo chiederle, no, che mi è sembrato che abbia fatto una caduta in maniera esagerata. Capisco che Ibrahimovic è un personaggio un po' rude quando ti si avvicina. È anche però grande e grosso, è un energumeno nato già come carattere e temperamento, no? Direi è grande e grosso, gli ha mollato una botta da dietro. Il giudice sportivo, esaminando la sequenza, ha detto anche che c'era stato certamente un gesto scorretto. Con un minimo di adesso non ho sotto mano la motivazione, ma poi la vado a prendere durante l'intervallo, ma che non per questo secondo lui integrava la prova televisiva. Io sono abbastanza d'accordo, però da lì a far passare Thiago Motta per un simulatore mi sembra un po' eccessivo. È proprio vero che le angolazioni, gli angoli di visuale sono tanti, eh? Francesco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Granzini. Dica. Volevo solo dare una mia considerazione a proposito dell'allenatore Mourinho. Lui, dopo la chiamo sceneggiata di domenica che hanno ripreso tutte le telecamere, ma soprattutto quello che ha detto dopo, che lascerà fuori quei giocatori che lui è. Secondo me questo atteggiamento, visto anche in passato altre squadre e così via, crea purtroppo del malumore negli spogliatoi, perché molti giocatori naturalmente non digereranno bene questa situazione, quindi secondo me si creerà dentro un verme che andrà a corrodere un po' tutto, e la vedo male non perché sono un pessimista e nemmeno voglio gufare per la mia squadra, perché è solo un interista. Perché lei è interista. Sì, signore. E ho l'impressione che questo verme, come lo chiama lei, insomma, diciamo questo coro, si sia già insinuato, credo che insomma, tanto Mourinho ha lasciato a casa anche Cruz, no? Perché questa forse prima non l'avevo data, prima ha escluso Adriano, adesso nella seconda battuta di agenzia ha lasciato a casa anche Cruz, ma non è tanto quello, perché poi quando ne hai così tanti è ovvio che devi fare delle scelte. Però io credo che un tecnico che si è presentato con quella, insomma, diciamo alla maniera di Mourinho, che due settimane fa o 20 giorni fa, non di più, proclama pubblicamente con voce impostata e musigno di circostanza che mai da lui, dalla sua voce, si sentirà accusare un giocatore davanti ai giornalisti, e poi nel giro di due settimane fa quel cinema lì, io ho l'impressione che sarà anche stressante il calcio inglese, ma ho l'impressione che quello italiano forse lo sia un tantinello di più, e lui non sia ancora esattamente preparato a questo, e poi staremo a vedere alla fine. Il ripasso di storia, ovvero che cosa è accaduto nella storia dello sport il 28 ottobre, ce lo racconta Nicola Filippone. sembra ieri. 28 ottobre 1984. È il giorno di Mark Atley. Una prodezza del giovane centravanti inglese regala al Milan un successo nel derby dopo 6 anni. Era stata l'Inter di Castagnera a passare in vantaggio all'11° con Altobelli. I rossoneri di Lidl avevano però reagito, raggiungendo il pareggio 20 minuti dopo con Di Bartolomei. La svolta arriva al 63°. Virdis crossa da destra, pescando Atley all'altezza del dischetto. L'inglese sovrasta con Lovati, lasciando partire un colpo di testa perfetto, e per Zenga non c'è niente da fare. È il gol che permette a Atley di entrare per sempre nel cuore dei tifosi rossoneri e di campare di rendita. Infatti rimarrà al Milan per 3 stagioni, ma non sarà più in grado di lasciare il segno. Mark Atley è uno dei più grandi colpitori di testa del, adesso non dico del dopoguerra, ma certamente di un periodo abbastanza lungo. Una meteora comunque. Fabio da Pescara, buongiorno. Buongiorno, io volevo evidenziare un fatto di cui non ho sentito parlare, pochissimo o nulla. Strano. Sui giornali. Strano, perché in genere almeno un intervento al giorno è così, cioè comincia così, c'è una cosa che nessuno ha ancora detto. Sentiamola, Fabio. Perché io non l'ho letta. Sentiamola. Comunque c'è stato un fallo bruttissimo di Diana nel derby di sabato su Nedved. Le porto registrazione di ieri, se crede. Ah, ecco, mi scusa, allora non ho sentito la trasmissione. Allora rischio magari di essere ripetitivo. No, volevo evidenziare questo fatto perché è stato un fallo veramente brutto. E l'arbitro non ha visto, ha visto il quarto uomo, che però non ha consigliato all'arbitro almeno di ammonire Diana. Ma quale ammonire? Cioè, infatti è assurdo, deve essere un fallo da espulsione diretta. Cioè, io non riesco a capire sinceramente. Un fallo da espulsione diretta, quello, e certamente anche quello di Maicon domenica, e così come quello di Ankulovski la domenica precedente contro Cassano poco prima, e come quell'un altro di Grigera nel finale di partita da frustrazione nel finale di partita di Napoli, non ricordo su chi. C'è troppo poca severità, a parer mio, nella classe arbitrale su questi falli, che sono degli attentati in realtà. E quando sono arrivato un po' così ieri, perché Gussoni ha fatto i nomi di Saccani e di Morganti, cioè come dei due colpevoli di domenica, no? Gli arbitri di Udine e Palermo. Per carità, lui è presidente degli arbitri, è una scelta sua, anche Mourinho ha fatto i nomi dei colpevoli, si vede che oggi si usa così. Però visto che ne ha fatti due di nomi, Gussoni, mi sarei aspettato anche... Se non i nomi degli arbitri responsabili, perlomeno una segnalazione su questi falli così gravi e così impuniti. Vincenzo ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti a lei e alla sua trasmissione. Sì. Io volevo chiedere innanzitutto il suo parere sulla Juventus. Poi io volevo fare un'altra considerazione. Quando c'è una prova TV e la società fa il reclamo, perché quando non accetta il reclamo gli aumentano la squalifica? Non so, Vincenzo, sinceramente non ho capito cioè cosa dovrebbero fare, visto che hanno fatto il reclamo, dagliene 3 o dagliene 4 di cosa. Beh, sembra che 2 siano sufficienti, però noi siamo, ecco, vede, l'ascoltatore di prima diceva che nessuno ha ancora detto la cosa che ha detto lui, che ovviamente era di dominio pubblico, è uno degli argomenti del giorno da sabato sera, nemmeno la domenica. E poi ogni tanto invece proviamo a inventarci regolamenti, come se già non fossero complicati abbastanza quelli che ci sono. Proviamo a distrarci un attimo, per esempio con la rubrica da tifoso milanista di Vittorio Zucconi, che esce lunedì sulle Milanesi di Repubblica, che oggi ha un paio di spunti divertenti. Ripeto, lui scrive da milanista e ovviamente sfotte a sangue i cugini. Guardate la classifica dopo la giornata di domenica: ci sono 11 squadre in 5 punti e persino il Milan, che funziona a carbonella, lui è milanista, e deve aspettare il piede fatato del suo unico grande giocatore Kakà per schiodarsi da un Atalanta che lo aveva impalato, sta appena a un punto dalla Neuro di via Durini, sarebbe la sede dell'Inter. L'Inter, che ha più punte di un porco spino e più nazionali sudamericani della Coppa America, ha perso 7 dei 24 punti in palio finora e permette quella specie di tamponamento a catena a nebbione sull'autostrada che è la classifica. Intanto il Milan delle vecchie soubrette di seconda mano sta secondo ad un punto, Rob de Murat. Rodolfo dalla provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, sono Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione, è un piacere ascoltarvi, è un piacere partecipare. Volevo parlare di Gilardino, volevo spendere spezzare un'arancia a favore del Gila, perché secondo me lui veramente non l'ha fatto volontariamente quel gesto, perché io non so, non è che voglio avere la presunzione di vedere cose che altri non hanno visto, però secondo me... Guardolfo, io sono d'accordo con lei sulla prima parte, lo ha fatto istintivamente in una frazione di secondo, ma dopo ha avuto tutto il tempo che poteva, no, per pensare prima di fare il cinema. Poi mi sbaglierò, io l'ho guardato tante volte quel momento e la dinamica, se noi vediamo al momento... Ma scusi un attimo Rodolfo, lasci stare la dinamica delle moviole che mi viene l'emicrania solo a cosa, mi parli dell'esultanza successiva. Sì, quello va bene. E allora, due giornate. Però attenzione. È chiuso. No, perché quando il difensore lo ostacola, alza il ginocchio sinistro, con il ginocchio di alzare il braccio di Gilardino che va dentro la palla. Guardatela bene, bene la dinamica. Sì, stasera mi rimetto alla moviola. Lei mi suggerisce questo? Mi faccio una mezz'oretta di moviola stasera? Poi chiaramente non doveva esultare, però lui non l'ha fatto volontariamente. Cioè, è stato il ginocchio dell'altro a spingergli la mano verso la palla? Esatto. Che guardate. Sfiga che ha avuto Gilardino, pensi lei, no? Si becca due giornate per sta roba qua. È destino ogni tanto. Io l'ho guardata mille volte, ho avuto questa impressione, però dico, non voglio avere la presunzione di dire la verità. E soprattutto spero che non contagi i connazionali in onda attualmente sull'impiego del tempo libero, soprattutto, perché forse il tempo che si impiega a vedere mille volte una cosa di quel genere si può impiegare anche diversamente. Da Firenze c'è Sasha, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Senti, io volevo fare un raffronto tra... Ci conosciamo? No. E allora buongiorno Sasha. Buongiorno. Volevo fare un raffronto tra quello che è capitato a Gilardino e quello che è successo alla Fiorentina a Lione. Se quando Benzema segna, secondo me è la stessa, cioè è una cosa irregolare allo stesso modo, però Benzema non viene squalificato. No. Cioè, diciamo così, è una condotta antisportiva lo stesso, essendoci un giocatore a terra. Lo stesso arbitro doveva decidere, non ha visto che Zauri era a terra. No, non ha visto la mano di Gilardino. In campo le cose succedono, secondo me, e non dovrebbe esistere la prova TV su queste cose. Dovrebbe esistere magari su degli interventi a gioco fermo. E che non riguardino la Fiorentina, mi pare di capire. No, in generale, dico. Cioè, poi, non lo so, mi sembra che Ibrahimovic abbia fatto un fallo e non è stato punito con la prova TV, giusto domenica. Guarda caso c'è Fiorentina Inter, io mi viene da pensare questo. Beh, grazie. Sasha, sono io che ringrazio lei Sasha, perché aspetto questa telefonata e questa minchiata dal primo minuto di trasmissione. Cioè, sono le 14:55:29, temevo di perdere questa scommessa che ho fatto con un paio di colleghi, lei sinceramente mi ha salvato. Le aggiungo per la completezza dell'informazione una cosa che mi ha scritto Marcello da Udine, che ringrazio per la sua memoria, Marcello Manetti, perché io ovviamente me l'ero già scordata da tempo, che è la seguente: quando proprio qualche settimana fa il Lione segnò quel gol scorretto alla Fiorentina con un giocatore viola a terra, sa chi disse che si parla sempre di sportività, ma poi è inutile se in campo succedono queste cose? Lo disse uno che si chiama Alberto Gilardino. Ringrazio quindi Pietro Lacorte, ringrazio lei Sasha per l'intervento finale, ringrazio Pietro Lacorte in regia, Flavio Soardi in redazione. Appuntamento a tutti, a domani.